Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Era un commissario francese. Non lo so. Non ho nemmeno studiato, quindi è colpa del sistema scolastico. Uno che parlava col cuore, credeva nella politica con la P maiuscola. La cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei? Che sarei triste. Perché non è vero. Quella leggerezza, no? Quelle ossa piccole, no? Quel sembrare quasi sempre che i vestiti stanno sempre grandi. Siamo un partito comunista. Siamo un partito comunista. Diverso. Quel concetto di diversità mi andava bene. Un italiano su tre vota comunista. La Democrazia Cristiana prima o poi si dovrà decidere a fare i conti col Partito Comunista e con l'insieme delle forze della sinistra. Noi abbiamo questo assilio di evitare che si crei una spaccatura nel popolo italiano e nello schieramento politico italiano, in quanto riteniamo che questo può essere un fatto molto pericoloso per le sorti della democrazia italiana. Era una persona integerrima, timida ma col martello, non fu mai incudine Berlinguer. Era il massimo di quello che un democratico può desiderare. È una parola che non mi ha mai fatto paura, la parola comunista, a me in Italia, perché l'associo con quella faccia, con quelle parole, con quell'onestà. Allora, onorevole Veltroni, grande successo ieri la presentazione del film su Enrico Berlinguer nelle sale dal 27. Ecco, dalla politica al set, pensava fosse così emozionante? Beh, ha ragione, è stata un'emozione particolare perché avendo praticamente quasi tutta la vita giocato a calcio, anche a livelli adeguati, improvvisamente è come se uno dovesse fare la finale di Coppa dei Campioni o il torneo delle sei nazioni di rugby, insomma, quindi è un altro gioco. È tutto un altro modo di giocare, ma però la si può considerare una nuova carriera di autore cinematografico o documentaristico iniziata? No, guardi, io ho fatto questa cosa perché erano le due passioni della mia vita, sì. Berlinguer, la politica, una certa politica e il cinema, che si sono riunificate e questo forse ha fatto sì che questo prodotto fosse, insomma, particolare. Sì. Ecco. Senta, all'inizio lei nel suo film racconta la drammatica ignoranza di una generazione per la quale Berlinguer non è nessuno, ma perché? Ma guardi, io comincio a pensare, io ho raccontato quei ragazzi anche con affetto e con persino con simpatia, perché mi rendo conto che forse anche a noi, se avessero fatto, ci avessero chiesto chi era Giolitti, avremmo fatto fatica, però il problema è generale della società, cioè una società che sta perdendo la memoria, il senso della storia. Senza memoria non c'è futuro. Senza memoria non c'è futuro. Un paese no, non che c'è futuro, ma non c'è neanche presente, nel senso che noi viviamo in una società dell'istante che divora tutto molto rapidamente, in cui le comunicazioni sono ossessivamente presenti, in cui si perde la gerarchia delle cose perché tutto è un'ultima ora meritevole di essere raccontata. Infatti. Come tale, in cui non c'è quella profondità che è parte della bellezza della vita, no? Ecco, Veltroni, questo dà molto alla memoria. Veltroni, sarà responsabilità delle famiglie, delle scuole, molto della televisione, però soprattutto, così sembra dal suo film, la responsabilità è molto anche di chi doveva coltivare e far vivere quella storia e invece l'ha tradita e non ne ha trovato un'altra. Ecco, io ho sentito questa intenzione forte di dolore autocritico dentro il film. Ma sì, perché la politica ha teso a cancellare tutte le orme, cioè ogni tempo storico richiede l'attualizzazione e Berlinguer è la prova di questo, cioè Berlinguer era un uomo che ha cambiato nel suo tempo il modo di essere del partito, l'ha cambiato radicalmente, quindi ogni tempo è diverso, ma quello che è importante in ogni tempo è mantenere il senso della memoria. Appunto. La memoria per me è stata un'ossessione, qualsiasi lavoro abbia fatto nella mia vita da sindaco a direttore dell'unità, ho sempre cercato di coltivare e di far coltivare alle persone che incontravo la bellezza del ricordo. Ecco, quando però andavo con i ragazzi alle foibe o ai campi di sterminio, volevo dire proprio questo con le scuole romane. Onorevole Veltroni, però Berlinguer era un comunista italiano dichiarato, fiero di esserlo, che arrivava però al cuore anche di chi non lo era e non lo sarebbe mai stato. Questo si è perso, perché? quella è stata la grandezza di Berlinguer. Cioè Berlinguer era un uomo figlio del suo tempo che ha portato la sua storia al punto più alto di innovazione possibile. Guardi, io non vengo da una famiglia comunista, erano gli anni immediatamente successivi al 68, quando avevo 14-15 anni, e allora si cominciava presto a far politica, e per me, che diciamo credevo in certi valori e che tra URSS e Stati Uniti non avevo dubbi sul fatto che si dovesse stare con gli Stati Uniti, come dimostra il mio amore kennediano, per me è stato Berlinguer l'incontro con la politica. Berlinguer era grande moralità, stare dalla parte dei più deboli, progressivamente rompere con l'Unione Sovietica, ecco, tre cose che per me erano importanti. Ecco Veltroni, ma quale sarebbe stata la sua vita se non avesse incontrato Berlinguer, un regista cinematografico? Forse si guardi quasi per prendere in giro me stesso, all'inizio del film, dopo i titoli, c'è un filmino in Super 8 che io girai allora e che riguardava Berlinguer. Io andai in piazza con la Canon di allora, Super 8, certo. E ripresi Berlinguer. In fondo c'era già tutto lì. Di anni dopo sono tornato lì. Ecco, senta, un'ultima cosa, Veltroni. Lei adesso si dà al cinema, vedremo per quanto tempo. D'Alema tenta di andare in Europa. Renzi, che è un non comunista, è alla guida del governo e del partito. È cominciata un'altra storia per la sinistra italiana? Sì, ma come è naturale che sia, sa, nel frattempo sono successe tante cose, è caduto il muro di Berlino, sono crollate le ideologie, c'è stata la globalizzazione, sono cambiate le figure sociali, cioè è cambiata la storia, e dentro questo cambiamento di storia però c'è una cosa che bisogna sempre tenere come metodo, per me, dal mio punto di vista, memoria, profondità, valori e moralità. Se si fa questo, se si ha questo dentro di sé, è legittimo che la sinistra cambi se stessa dentro i cambiamenti della storia, mantenendo questi valori. E allora appuntamento dal 27 al cinema. Grazie Veltroni, auguri. Grazie a lei, arrivederci. È la musica, Pietrangelo in Sicilia, ma è con noi. Eccomi. Ecco Pietrangelo, perché chiudi la settimana proprio con Finardi? Perché la musica ribelle, ho visto che dopo la Crimea anche la Transnistria vuole ritornare alla Santa Madre Russia, però stavo pensando che in fondo in Veneto hanno fatto questo referendum, e allora mi è venuto da pensare, dunque lì in Grande Madre Russia, ma qui il Veneto dove? Forse l'impero asburgico? Sì, ce li vedo. Le aquile sono uguali, diciamolo. Sì, vabbè, però dai. Tutte le immagini, il Veneto produttivo che è un po', diciamo, l'assista con le tasse finire tra i tedeschi che invece le pagano tutte, dai. Però già si, come dire, vabbè, qualche segnale. La macro regione, il Veneto, sì. Tutto si disgrega. La Carinzia. Guarda che in Veneto sono più italiani di te e me. Tutti si disgrega e si riaggrega in un modo sorprendente. Ma Sara intanto che fa? Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. In quanto quota rosa non posso che pensare che ci vuole un fisico bestiale, soprattutto il venerdì. Ma per fare cosa? Per sopportarti? No, per lavorare con voi tre uomini. Io da quota rosa ci vuole un fisico bestiale. Se uomini è una parola grossa. Cosa bolle in pentola Mario oggi? Mazza, mi hanno fatto partire l'inno europeo al volo proprio. Al volo. Vabbè. Che gioia non è però, caro Giovanni, non so, vi chiamo a una riflessione, non prima di aver detto che le vostre scelte musicali sono un po' passatiste, ma questo vabbè, ormai... Vabbè, ma per fortuna ci sei tu. Darò un tocco di contemporaneità, se me lo consentite, dopo. Volevo dire che niente gioia invece, ma Europa amara per Renzi, secondo me, perché al di là delle fanfare che suonano sempre in patria e suoneranno ancora per un po', in realtà il nostro Presidente del Consiglio ha cominciato a sperimentare cantare sulla sua pelle che i paesi del nord, guidati dalla Germania, non hanno alcuna intenzione di allentare il patto e di cambiare le regole di bilancio per dare ossigeno a quei paesi che sono in perenne relax contabile. Ma non può essere il Club Med, diciamo Mario, così. Non può essere iniziato però un braccio di ferro politico e non più solo un confronto tecnocratico? Può darsi, secondo me un segnale concreto arriverà dalle elezioni europee in poi, diciamo. Dipende molto da come sarà composto il prossimo Parlamento europeo. Se, come immagino, ma ovviamente poi saranno i numeri a parlare, la quota di euroscettici, chiamiamoli così per comodità di sintesi, dovesse allargarsi, allora probabilmente anche in seno alla Commissione, potrebbe, che è il potere esecutivo, vorrei ricordare, potrebbe, il vero potere. Potrebbe capitare, potrebbe, insomma. Ma qualcosa forse si sta muovendo. Salamini. Sì. Avete letto tutti oggi l'intervista di Concita Sannino a Francesco Pascale su Naturalmente. Repubblica? Ah, una delizia quell'intervista. Lei spera in Marina, dice che senza Marina Berlusconi sparisce tutto, ma poi nel leggere questa intervista si scopre che lei ha mandato via chi abusa della buona fede di Silvio Berlusconi, altro che i fagiolini a 80 euro, ha cacciato via tutti e poi se ne viene fuori con un concetto che è degno della Grande Guerra, quando dice meglio vivere un giorno da toti che, vorrebbe completare la frase, ma poi Concita Sannino l'aiuta e il concetto è questo: meglio vivere un giorno da toti che 10 da Sant'Anché. Ah, insomma, la guerra continua. Finale della Coppa del Mondo. E allora, allora Mario? Vogliamo tornare nel mondo reale? Anche vabbè, questo è reale. Sì, questa è soap opera. La come mia è un soap opera? Lì sono disperati, vogliono le candidature, non sanno cosa fare, finisce tutto. Sempre soap, comunque si scivola sempre sulla saponetta in quel mondo là. Invece io preferisco il mondo concreto, lo sentiamo? Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. Allora, la paura è un problema che non ci riguarda o ci riguarda, dipende. In regia stamattina sono molto, molto allegrone. Eh sì, perché c'è Enrico dalla Grecia che scrive la vostra quota rosa è troppo risicata. Però è soltanto la Tardelli che non vuole intervenire di più. Per me... Ma non è risicata, scusate, è sovrana. Quindi... Ah, sovrana. Diciamola la verità. È sempre questa scusa. Intorno, è sovrana. Mamma mia, Buttafuoco in collegamento dalla Sicilia, se possibile è ancora più animato da questo afflato mediterraneo. Dobbiamo fare attenzione a non sovrapporre le voci, ce lo dicono tutti i nostri ascoltatori. Vai Mario. No, era una poltrona per due, perché i mercati, la borsa, le banche continuano a suscitare in me un grande interesse, abbiate un po' di pazienza. Ma la vera partita è quella sull'unione bancaria, di cui non si parla ovviamente quasi niente in Italia, anzi non se ne parla per nulla, in Parlamento sono affaccendati in altro e in realtà i tedeschi continuano a dominare le danze e hanno svegliato il ministro delle finanze tedesco Schäuble alle 5:30 e pare che abbia concesso qualcosa e quindi si sia alla fine trovato un accordo, ma insomma, dotazione piccola per un fondo di salvataggio piccolo, 8 anni di transizione e i tedeschi che hanno salvato ampiamente, ma questo era già stato detto, le loro banche locali. Le loro banche sono salve, esatto. Sono le nostre che hanno i problemi. Un'altra esatto. Bolla? Un'altra bolla musicale, senti. È la Electric Light Orchestra, questa è un po' del passato, ma molto contemporanea in realtà. Volevo avvisarti Giovanni che la fine del mondo oggi non ci sarà, perché sui social tutti prevedevano un impatto di un asteroide, il cui nome è 2003 QQ47 per gli appassionati, in realtà è lontanuccio, 50 volte la distanza tra la Terra e la Luna, quindi cari apocalittici e disintegrati o disintegranti, alla prossima volta. Volevo rassicurare Lele da Lecco che dice che sono un meridionale, ma io purtroppo sono di Torino, o no. Per fortuna non lo so. Io sono due isolani e un torinese, è durissima. Il meridione non c'è. Vuoi sentire qualcosa di Shining? Sì. Sì. Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso, su apri la porta. No! Cappuccetto rosso, stamattina ci siamo sbizzarriti nella scelta dei suoni e dei rumori del nostro canovaccio. I lupi bussano alle porte di Parigi, caro Cappuccetto Rosso Minoli e caro Cappuccetto Rosso Buttafuoco. La popolazione è cresciuta talmente tanto che c'è un allarme tra gli agricoltori, soprattutto gli allevatori francesi. Nel 2012 i lupi cattivi hanno azzannato e ucciso 6.666 animali, e queste sono le statistiche ufficiali, in realtà sono molte di più, quasi tutte pecore. E abbiamo un salamino di Buttafuoco. Allora, io volevo fare un salamino sul ponte di Crimea che Putin sta realizzando per collegare. Si sente molto Crimea. Male, si sente molto male. Malissimo. Malissimo. Come malissimo? Perché Crocetta non fa arrivare la linea telefonica, questo è. Parla più piano. Allora, volevo fare un salamino sul ponte che Putin sta facendo costruire per collegare la Crimea alla madre patria Russia. Però ho pensato che ne approfitto per fare una protesta. Non voglio parlare con Mario Secchi. Va bene, d'accordo. Lo sai perché? Sì, dimmelo. Perché ha scritto una lettera oscena oggi sul Corriere della Sera contro Simonetta Bartolini. Non sono io. Adesso non parlare. Ma sono tutti pettegolezzi fra di voi questi, dai. Pettegolezzi, ma ti pare giusto che venga bocciata una professoressa, una docente di letteratura italiana solo perché è figlia di Sigfrido Bartolini? Solo perché ha studiato Guareschi, solo perché conosce alla perfezione. Va bene, adesso lo sgridiamo. Comunque, non ti facciamo. Non sono io, vorrei dire. Non sei tu, quel Mario Secchi. È un omonimo. Vabbè, senti. Faccio parte di un'altra famiglia. Allora, oggi, comunque, nella seconda ora abbiamo una storia nuova che ci racconta Marina Milone. È la storia del primo dirottamento dei terroristi e si chiama la storia dell'operazione Entebbe, un'incredibile operazione di salvataggio realizzata dai reparti speciali del Mossad, dove è morto il fratello di Bibi Netanyahu, che ne parla in questo breve frammento. Ioni è stato un fratello meraviglioso, era il fratello maggiore, ma soprattutto un essere umano straordinario. A volte non bisogna morire per diventare una leggenda. Lui era già una leggenda prima di morire. Chiunque abbia conosciuto Ioni sa che era una persona speciale, un uomo davvero straordinario. Questo nella seconda ora. Intanto adesso il faccia a faccia storico con Enrico Berlinguer. Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia della storia. Oggi a Mix 24 vi proponiamo il faccia a faccia con Enrico Berlinguer. La sola intervista, a parte le tribune politiche naturalmente, che il segretario del PC abbia concesso in televisione. Enrico Berlinguer, sassarese, comunista di idee del 37, di partito dal 43. Il padre Mario era compagno di scuola di Togliatti, avvocato e senatore socialista. Anche Enrico frequenta Sassari il liceo Azzuni, quello di Segni di Togliatti, rimandato in scienze nel 38-39, sufficiente in religione nel 40, nel 44 fa 4 mesi di prigione per la rivolta del Pani e Togliatti lo chiama Roma. Nel 45 è membro del comitato centrale, dal 49 al 56 segretario della FIGC, nel 57 direttore della scuola di partito, nel 60 responsabile dell'organizzazione, nel 68 è deputato a Roma, poi vice segretario e dal 17 marzo del 72 segretario del PC. Da allora è sempre lì, al secondo piano di Botteghe Oscure. Ha portato il partito al suo massimo storico, 34,4 nel 76. Oggi tanta acqua è passata sotto i ponti a Roma e a Mosca, ma lui è sempre lì, schivo, riservato, apparentemente triste, tanto che qualcuno l'ha chiamato il sardo muto. Parla poco, dicono, ma poi, ha scritto Enzo Biagi, è uno dei pochi politici che mantengono la parola. Per altri invece è nato vecchio, è l'antieroe, è svolta continua. Certo, è un capo. Qualcuno dice anche troppo e lo accusano di cesarismo. Tutti i cambiamenti, tanti, li ha gestiti da solo, dicono. Dicevano che avrebbe mollato, che all'ultimo congresso se ne sarebbe andato, e invece è ancora lì. Di privato in lui, almeno così sembra, non c'è quasi nulla. Ha giocato al calcio, gli piacevano le moto e la ginnastica, e fa il tifo per il Cagliari. Lo amano e lo odiano, a Roma e a Mosca. Dicono che piace alle donne perché appare indifeso, e invece si difende benissimo. Non per nulla, dopo 10 anni, è ancora lì, al secondo piano di Via delle Botteghe Oscure, dove da sempre c'è la stanza del segretario. L'onorevole Berlinguer, in una battuta nota, l'onorevole Pajetta ha detto che lei, di nobile famiglia sarda, si è iscritto fin da ragazzo alla direzione del PC. La considera una critica o un complimento? Un complimento non del tutto vero, perché all'inizio della mia milizia comunista ho fatto anche il segretario di sezione. Sempre parlando di potere, in televisione ha ammesso, sia pure con molta reticenza, che rifare il segretario del Partito Comunista dopo 10 anni le fa ancora piacere. Ecco, ma perché tanta reticenza nell'ammetterlo? Mi ha dato soddisfazione l'ampiezza del consenso con la quale sono stato designato. Ma per lei cos'è il potere? Il potere è uno strumento insufficiente ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni. Ecco, ma a lei cosa piace invece di più del potere? Piace la possibilità di far avanzare la realizzazione di questi ideali. E di meno? La cosa che le dà più fastidio? E di meno, parlando non soltanto a titolo personale, ma parlando come segretario del Partito Comunista, mi dispiace che il nostro potere sia ancora insufficiente per la realizzazione dei nostri obiettivi. Ecco, sempre parlando di potere, lei a Milano ha stravinto il congresso, il che vuol dire che i berlingueriani sono in grande maggioranza nel Partito Comunista. Ci può fare brevemente l'identikit di un berlingueriano? Non posso, perché io nego che esista questa categoria dei berlingueriani. Quindi lei crede che ognuno, insomma, diciamo, dei comunisti, diciamo così, che l'hanno rieletta, abbiano chiara la coerenza che ci dovrebbe essere tra la politica del compromesso storico di ieri e quella dell'alternativa democratica di oggi? Lei che cosa intende per compromesso storico? Quello che si intende comunemente. Ecco, quello che si intende comunemente è, però non è esattamente quello che io intesi quando parlai di questa formulazione. Comunemente si intende un accordo a due fra Partito Comunista e Democrazia Cristiana. Ecco, ma secondo lei allora lei non si sente in contraddizione? Cioè, un leader politico come lei può gestire due politiche che appaiono contraddittorie senza avere dei problemi? No, non nego la novità che abbiamo introdotto con la prospettiva. Cioè, c'è una differenza o no? La differenza sta nel fatto che nella nostra politica di alcuni anni fa era prevista una collaborazione anche di governo con la Democrazia Cristiana. Nella politica dell'Alternativa Democratica questo è escluso. Tuttavia rimane valido, nella ispirazione del compromesso storico, la ricerca di un incontro e di un lavoro comune con le organizzazioni di ispirazione cattolica. Quindi secondo lei la contraddizione è minima, anzi non c'è? Esiste una evoluzione, perché le situazioni cambiano e la politica del partito stesso. Quindi lei non ha mai pensato di perdere, non ha mai pensato di perdere credibilità nel cambiare da una all'altra? Anche gli altri partiti cambiano spesso politica. L'importante è che i cambiamenti siano adeguati alla situazione e siano condotti in modo tale che tutti comprendano la necessità e la opportunità di quel cambiamento. Ecco, lei però ha addirittura detto compromesso storico è un termine che ho deciso di non usare più. Non le sembra troppo per aver fatto, dopo aver fatto 7 anni di strada con questa parola? Perché, come ho detto prima, il termine, infinite volte ho dovuto spiegare di che cosa si trattava e infinite volte mi sono trovato di fronte a interpretazioni riduttive e deformanti. E a questo punto ho preferito rinunciare. Ma non può essere che fosse oggettivamente difficile capire, allora? Si è dovuto spiegarlo tante volte così? Può darsi. In realtà per un certo numero di anni si è capito che cosa significasse, poi è sopravvenuta una campagna tale di deformazione che evidentemente ha fatto la sua presa. Onorevole Berlinguer, un'altra cosa però che sicuramente è cambiata e che è difficile da capire in qualche modo è perché lei all'epoca del compromesso storico teorizzasse che più o meno ci volevano il 70% dei voti per governare, adesso invece dice bastano il 51%. Cos'è cambiato? Qualcosa è cambiato. Niente di sostanziale da questo punto di vista, perché 51% è necessario dal punto di vista della base parlamentare per fare un governo. Tuttavia io ritengo che poi un governo che si formasse anche con questa base così ristretta dovrebbe lavorare non contro tutto il rimanente 49%, ma per conquistare nell'opinione pubblica il consenso più largo. Cioè, invece che partire dal 70 si può partire dal 51. Insomma. E cercare di arrivare al 70. Senta, onorevole Berlinguer, ma che differenza c'è tra l'austerità che predicava lei e il rigore invocato oggi dalla Confindustria e dalla Democrazia Cristiana? Il punto fondamentale è chi paga prevalentemente le spese della fuoriuscita dalla crisi e del risollevamento economico e sociale del Paese. Da questo punto di vista noi rifiutiamo che a pagare siano i soliti, siano gli operai, siano le masse popolari, e riteniamo che se sacrifici devono essere e tutti in una misura proporzionata vi debbono contribuire, debbono servire a raggiungere determinati traguardi e non a far tornare indietro il Paese. Ecco, però a proposito di questo rigore, si dice, così almeno si legge, che lei avrebbe in testa per dopo le elezioni quel governo diverso composto da tecnici e personalità scelte fuori e dentro i partiti, una sorta di governo del Presidente, diciamo, al quale il PC darebbe il suo sostegno. È vero o no? Abbiamo indicato dei criteri di formazione del governo diversi da quelli seguiti finora, in base ai quali il Presidente del Consiglio dovrebbe scegliere liberamente e non attraverso le imposizioni e designazioni delle segreterie dei partiti i ministri, fra uomini di partito e al di fuori dei partiti. Questo ritengo sia un criterio valido per qualsiasi governo, compreso un governo di alternativa democratica. Ecco, quindi non c'è un'alternativa tra governo diverso e governo dell'alternativa? No, non mi pare, perché il problema che abbiamo posto è quello che, ripeto, deve riguardare qualsiasi governo, anche un governo non di alternativa democratica, di criteri non più fondati sulla lottizzazione, sulla spartizione dei ministeri. Sì, no, ma io chiedevo se, per essere chiarissimi, ecco, se il governo dell'alternativa prevede o no anche una subordinata. Non possono essere escluse delle tappe intermedie sulla via dell'alternativa, ma una tappa intermedia potrebbe essere per esempio anche quella che il Partito Comunista e il Partito Socialista restino entrambi per un certo periodo, per il periodo necessario, all'opposizione, per rendere poi più possibile la lotta per l'alternativa. Ecco, ma a proposito di questo, il Partito Comunista dall'Unità Nazionale a oggi è cambiato, parlo del partito. È cambiato, ma non soltanto perché è cambiato il quadro politico. Perché anche? È cambiato perché c'è stata un'evoluzione dovuta anche allo sviluppo delle nostre posizioni sul piano internazionale e dovuta poi allo sviluppo di una vita interna molto più aperta, molto più trasparente. Ecco, su questo torneremo poi in seguito. Onorevole Berlinguer, lei al congresso di Milano ha elogiato la stampa estera e ha sgridato quella italiana, rea, secondo lei, di non aver capito la sua relazione. Adesso a un mese di distanza, ci può dire che cosa non aveva capito la stampa italiana? Non aveva capito che il nostro congresso dall'inizio era un congresso di apertura e di grande innovazione, mentre mi pare che i commenti della stampa straniera in quei giorni avevano colto questo aspetto del congresso. Ecco, ma in complesso, lei come giudica oggi la stampa italiana? Nella media non inferiore e per certi aspetti superiore, per esempio per quanto riguarda la ricchezza dei notiziari politici a quella di altri paesi. Il difetto principale... Forse troppo. No, non direi, perché mi pare che il popolo italiano conserva un interesse politico maggiore di quello che vi è nella maggior parte degli altri paesi dello stesso Occidente. Troppo forse nel senso che qualche volta prevale il commento sulla informazione. Ecco, ma qual è il giornalista italiano che lei preferisce? Luigi Pintor, dal punto di vista delle qualità giornalistiche. L'unico? No, lei mi dice quello che preferisco. In assoluto. E perché? Perché mi pare che abbia veramente la stoffa del giornalista di alta qualità. Senta, onorevole Berlinguer, qual è l'ultimo romanzo che ha letto e che le è piaciuto? La cronaca di una morte annunciata di García Márquez. E perché le è piaciuto? Mi sembra una combinazione felicissima di poesia e di crudo realismo. E il film che ha visto, l'ultimo film che ha visto che le è piaciuto? L'ultimo è E.T. E perché le è piaciuto? È un film pieno di poesia, di fantasia e soprattutto è un film che mi pare che faccia appello ai sentimenti migliori dell'infanzia. Senta, ma alla televisione lei che programmi segue? I telegiornali, lo sport, qualche film. Senta, ma lei pensa che l'arrivo dell'avvento delle televisioni private abbia migliorato o peggiorato complessivamente la qualità dei programmi proposti al pubblico, realmente? Dal punto di vista spettacolare, migliorato. Dal punto di vista culturale, non direi, o comunque non ancora. Senta, parliamo dell'evoluzione del suo modo di essere comunista. Nel 1944 lei fu arrestato a Sassari, abbiamo detto nella introduzione, per la rivolta del pane e rischiò la pena di morte. Leggo: per insurrezione armata contro i poteri dello Stato, per devastazione e saccheggi, per detenzione di armi, associazione e propaganda sovversiva. Era colpevole o innocente? Fui prosciolto in istruttoria per non aver commesso il fatto. Ecco, ma allora era più giusto, è più ingiusto quello Stato che comunque dopo 3 mesi l'ha processato e lo ha assolto perché non aveva commesso il fatto, o lo Stato italiano di oggi che più o meno per le stesse imputazioni tiene per esempio quelli del 7 aprile e tanti altri come Toni Negri e gli altri da 4 anni in prigione senza giudicarli? Penso anch'io che sia un'assurdità questa detenzione preventiva così lunga. Senta, Piperno, Franco Piperno, l'ex leader di Potere Operaio, qui a Mixer ha detto che elemento scatenante del terrorismo fu la politica del compromesso storico, nella versione diciamo tradizionale, perché impediva all'opposizione di avere il suo spazio. Lei cosa ne pensa? Questo penso, rischio l'ha visto? Penso che l'analisi sia sbagliata, ma confermi che uno dei bersagli del terrorismo era il Partito Comunista. Beh, compromesso storico nel suo insieme, insomma. No, il Partito Comunista con tutta la sua politica, la sua strategia. Però è morto Moro. Realmente innovativa dell'assetto sociale e politico italiano. È morto Moro, però, per il compromesso storico. Morto Moro perché Moro era l'interlocutore più valido e più intelligente del Partito Comunista. Onorevole Berlinguer, ma lei crede ai collegamenti internazionali delle Brigate Rosse a proposito di questa strategia? So quel tanto che finora è stato pubblicato dai giornali. Ma lei ci crede o no? Certamente, penso che determinati collegamenti vi possono essere stati, senza tuttavia che questo possa significare negare la natura locale, italiana. Ecco, ma collegamenti con chi? Del fenomeno, questo non saprei perché non ho informazioni. Non ha opinione sui collegamenti? Non ho informazioni particolari, penso che i collegamenti siano stati diversi e in diverse direzioni. Senta, nel 76 a Giampaolo Pansa, il giornalista che lo intervistava, lei disse di sentirsi più sicuro sotto l'ombrello della NATO. Lo pensa ancora? Sì, ma nel senso che precisai allora che se l'Italia facesse parte del patto di Varsavia e non della NATO, evidentemente non potremmo realizzare il socialismo così come lo pensiamo noi. Ciò non vuol dire che qui, sotto l'ombrello della NATO, nell'ambito del patto atlantico, ci si voglia far realizzare il socialismo. Ecco, ma perché allora se si sente comunque in qualche modo più sicuro nella NATO per realizzare questo socialismo? Lei parla sempre del pericolo che viene dagli euromissili che non ci sono ancora e comunque non si è mai battuto, diciamo, contro gli SS-20 sovietici che sono già installati e che secondo quanto dice la NATO continuano ad essere installati al ritmo di 1 alla settimana. Non so se questo ultimo dato sia vero. È un dato NATO. Sì. Comunque noi ci siamo battuti, io batto contro tutti i missili, sia quelli sovietici sia quelli americani, e chiedo che quelli che non sono stati installati non lo siano e quelli che sono già installati siano ridotti e progressivamente smantellati. Ecco, ma lei crede o no al complotto bulgaro-sovietico per uccidere Papa Wojtyla? La faccenda mi sembra ancora molto misteriosa. Onorevole Berlinguer, come giudica lei il ruolo del Papa Wojtyla sulla scena, diciamo, della politica mondiale? È un ruolo diverso da quello di Paolo VI? In che senso, se diverso? Contraddittorio, perché trovo per esempio che mentre l'attuale pontefice ha preso delle posizioni positive, come del resto suo predecessore, sulle questioni del disarmo e del pericolo della guerra atomica, presta un'attenzione legittima e giustificata alla Polonia, ma sproporzionata rispetto a quella che presta ad altre situazioni non meno acute, come per esempio quelle dei paesi dell'America centrale. Mix 24, i faccia a faccia della storia. Onorevole Berlinguer, torniamo un po' ai fatti di casa nostra. Nel comunicato finale dell'incontro fra comunisti e socialisti del Frattocchi, lei e l'onorevole Craxi avete accusato una parte di magistrati italiani di iniziative strumentali. In che senso strumentali? Basta pensare alle iniziative contro il sindaco di Roma e contro gli assessori Nicolini e Rossi Doria, che poi si sono sgonfiate, per comprendere che qui ci siamo trovati di fronte quantomeno a una improvvisazione e a una fretta. Ecco, ma come mai il PC, fino a che non è stato attaccato, non ha mai parlato di una possibile strumentalizzazione dei giudici, anzi li ha difesi spesso, e lo ha fatto solo dopo i fatti di Torino e Roma, come ricordava lei? Strumentalizzazioni ci sono state anche nel passato, però intendiamoci, io difendo l'atteggiamento della grande maggioranza dei giudici italiani, che è corretto e onesto. Ma secondo lei esiste un problema di protagonismo eccessivo, soprattutto di irresponsabilità dei giudici? Possono esistere dei fenomeni di questo genere, ma la soluzione peggiore sarebbe quella di sottoporre i giudici al controllo del potere politico, cioè del governo. Ecco, ma lei pensa che invece la soluzione del giudice elettivo, almeno per una parte dei giudici, potrebbe essere positiva o no? In linea di principio sì, nelle attuali condizioni italiane ho timore che se si adottasse quella soluzione si andrebbe anche in quel campo a delle lottizzazioni. Onorevole Berlinguer, ma qual è il suo peggior difetto? Forse una certa spigolosità del carattere. E la qualità a cui è più affezionato? Quella di essere rimasto fedele agli ideali della mia gioventù. Ecco, ma è la cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei? Che sarei triste, perché non è vero. Senta, lei ha una famiglia di origini nobiliari e di tradizioni massoniche. Ecco, lei in che rapporto è con queste tradizioni? Dell'origine nobiliare non mi importa niente. E delle tradizioni massoniche? Mio padre si iscrisse alla massoneria, mi pare nel 1925-26, nel momento in cui la massoneria fu vietata dal fascismo. Quindi in funzione antifascista. Sì. E lei è massone? No, per carità. Ecco, ma se lo fosse, si vergognerebbe a dirlo? Non lo sono, quindi non riesco a mettermi nello stato d'animo di chi lo è. Senta, ma il Gran Maestro Corona, il Gran Maestro della Massoneria, ha detto che non c'è incompatibilità tra essere massoni e essere comunisti, vero? Secondo me c'è incompatibilità, perché essere iscritto alla massoneria significa addirittura giurare fedeltà a un'associazione i cui interessi, i cui obiettivi possono entrare in contrasto con quelli del Partito Comunista, cioè di un'altra associazione alla quale si aderisce liberamente. Ecco, onorevole Berlinguer, per lei cos'è più importante nella vita, la politica o la vita privata? La politica, però non la politica in senso generico, perché io non ho fatto la scelta della politica, io ho fatto la scelta della lotta per la realizzazione degli ideali comunisti. Ecco, ma la famiglia quanto conta nella sua vita allora? Conta molto. Lei ha 4 figli. A quanto del suo essere padre e anche marito ha rinunciato per fare politica? A una parte certamente, e me ne rammarico continuamente. Ecco, non ha mai pensato che non ne valeva la pena proprio per davvero? Non valeva la pena di rinunciare? Di rinunciare, no, questo non l'ho mai pensato e spero di non pensarlo mai. Se un suo figlio le dicesse "non sono comunista", lei come reagirebbe? Rispetterei il suo giudizio e la sua opinione. Ma i suoi figli sono comunisti? Lo chiede a loro. Lei non lo sa? No, io in genere non rispondo a domande che riguardano i miei familiari. Chi vuol saperne qualche cosa chieda a loro. Ma lei si sente tollerante in casa oppure autoritario? Cioè ha un rapporto di che tipo? Cerco di essere comprensivo. Onorevole Berlinguer, qual è l'uomo politico italiano vivente che lei stima di più? Pertini. Perché? Mi pare che, a parte le sue doti personali, abbia costituito e costituisca tuttora un punto di riferimento e di fiducia fondamentale per le istituzioni democratiche. E quello internazionale vivente? L'internazionale vivente è un po' difficile dirlo, perché se mi avessi chiesto qualche anno fa avrei potuto dire Tito e qualche anno ancora prima avrei potuto dire Ho Chi Minh. Senta, il suo avversario politico più duro, ma più leale, incontrato nel corso della sua vita politica lunga ormai, chi è? Italiano, naturalmente. Un avversario leale è stato Zaccagnini. Senta, lei come definirebbe Craxi, con una definizione breve? Un buon giocatore di poker. E De Mita? De Mita, persona astuta, anche intelligente, ma un po' imbonitore. E Fanfani? Fanfani, uomo di spirito, tanto che è riuscito a risorgere sempre dopo non poche sconfitte. Senta, ma lei ha degli amici veri che non siano comunisti? Sì, diversi. Onorevole Berlinguer, un'ultima domanda. Quest'estate, dopo le elezioni, quando andrà in vacanza, andrà ancora all'est come è andato, mi pare, negli ultimi anni, oppure tornerà nella sua Sardegna? Ancora non so, anche perché se le elezioni avranno luogo verso la fine di giugno, ho timore che poi ci sarà il mese di luglio e forse una parte di agosto che dovremo dedicare alla risoluzione della crisi di governo. Quindi niente vacanze? Comunque vacanze ritardate. Professor Simonelli, mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno, abbiamo un tempo di un flash. Che cosa consiglia ai nostri ascoltatori di vedere in televisione in questo weekend? Venerdì e sabato la seconda serata di Rai 3, cioè Stelle Nere di Marco Marra e I Dieci Comandamenti di Domenico Iannacone, perché sono dei programmi molto nuovi, graficamente e linguisticamente, e hanno dei contenuti anche interessanti. Rai 3 nel weekend sostituisce il chiacchiericcio un po' inutile di Gazebo con delle cose più interessanti. Gazebo a me piace moltissimo. Professore, grazie. Mix 24, la storia, a cura di Marina Milone, presenta adesso, dopo il giornale radio, Operazione Entebbe. Il 26 giugno del 76 un comando di terroristi si impadronisce dell'aereo dell'Air France 139 che vola da Tel Aviv a Parigi. È la storia di un'incredibile operazione di salvataggio realizzata dal Mossad. A seguire un'intervista della Milone a Guido Limpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di terrorismo e Medio Oriente.